Attenzione, canale 10, brecco. Ehi, allora, mi ascolti, guarda, 1-2-3 strofa, 1-2-3, 1-2-3 strofa, cambio. Ehi, la chiesa si è fatta chiave, va. Mi ascolti, sì. Lo metto vicino, vedi che ho fatto salire i picchi, anche vedi come rimbomba, l'ho fatto, vedi come va lo slitto adesso, gli ho dato, ho aperto un po' di radio e di picchi di modulazione, vedi come fa adesso, va già 12, guarda, hai visto, picchi di modulazione come vanno adesso, gli ho dato un po' di radio da dentro. Attenzione canale 10, attenzione su canale 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione canale 10, attenzione canale 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione canale 10, attenzione su canale 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione canale 10, attenzione su canale 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione canale 10, attenzione su canale 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione canale 10, attenzione canale 10, 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione su canale 10, attenzione canale 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione su canale 10, attenzione canale 10, canale 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione canale 10, attenzione canale 10, canale 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione canale 10, attenzione canale 10, canale 10 c'è qualcuno, cambio. Su canale 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione canale 10, attenzione su canale 10, attenzione canale 10, di più canale 10 c'è qualcuno, cambio. Attenzione su canale 10, attenzione canale 10, canale 10, 10 c'è qualcuno, cambio. Ciao Nicola, ben sentito, sono entrato a salutare che qui vabbè, stiamo facendo roba in casa, era acceso, sento la chiamata e un saluto, già entrerà qualcuno, ancora è presto un pochino, 5:30, no, 6:20 quasi, e dai Nico, se posso entro dopo, se no dai ritieniti salutato, ok? Ciao ciao. Nicola, ma sei in FM, interrogativo? Mi senti? Sì, adesso sì. Ti sentivo un'ondulazione strana, ho detto, ma sono passato in FM e ti sentivo meglio, ho detto, sarà quello. Ehi, ok, dai. Nico, rinnovo i saluti e se posso entro più tardi, ok? Ciao Nico, buonasera. Sì, ciao. Attenzione, su 10, prego. Attenzione. Gianni, c'è Nicola, io sto facendo roba in casa e dovrebbe essere ancora online, riprendi Gianni. Ah, sono per un controllo, dai, sono con l'antenna nuova, guarda bene come sta arrivando. Sì, tipo 9:15, ah in macchina, ecco, sì, 9:15, Nicola lo senti Gianni? Nicola, dove so se sia in macchina. e non me l'ha detto, siccome stiamo facendo, cercando anche i documenti qua che non troviamo. Oh già, era acceso, l'ho salutato e magari chiamo più tardi, però ci, non ha ripreso, però ci abbia già chiuso già. Comunque il segnale qua è buono, la radio pure, e dai, se posso entro più tardi, ma non credo oggi. Mi comprerò il microfonino adesso, tutto apparato, quindi lascio questo qua fisso, so dove metterlo e col microfono parlo. E ci sta in quella sede che mi hai fatto vedere l'altra volta? Sì, ci sta. Ottimo, dai, ottimo. E niente, già, dai. Oggi, vabbè, c'è il sergente. Il sergente c'è lì. No, il maresciallo, volevo dire, scusa, il maresciallo. Peggio, peggio, mia zia. Ciao, ciao. Ciao, Marco, ciao. Attenzione, lupo grigio, ci sei, cambio. Positivo, positivo, psicologa. E già, siamo troppo vicini, mi sento un bel forte. Ebbè, ma naturalmente. Facciamo così, ogni tanto chiamo su per i controlli e lo rispondo. Ehi, allora, io già sono qua, io. Mi puoi accompagnare, parliamo tranquillamente. Anche se c'è la mascherina, già mi va bene lo stesso a parlare. Ricevuto, ricevuto. Sono curioso, tu hai detto che è una persona, sono curioso capire come funziona, cambio. E questa già funziona bene, se li attacchi poi qualche cosa funziona ancora meglio. Ebbè, naturalmente, sì, naturalmente sì. Comunque, anch'io di questa persona mi ritengo soddisfatto, non è né troppo grande né troppo piccola. Sì, quella lì è l'ideale per la città, sempre però dove c'è apertura, perché se ci sono palazzi, quella lì non mi sembra bene come questa, là. Bene, bene, bene, oggi mi sono dimenticato, ti ho piano prendo tutto, no? Ho finito tutto fare un grande giro per poter arrivare qui a piazza dove sono adesso, no? Ma io lo sai che me l'ho immaginato, ci stavi mettendo troppo e te quanto ci mette a arrivare? Boh, ha detto che era già in viaggio, a meno che mi sia andato per passare a Viale Trento. No, ma io l'ho dimenticato, mi ha detto tutto, porca miseria. Ma è chiuso anche come passaggio pedonale. Quindi io per andare alla coda, perché dove abito io, devo fare un giro enorme, tanto. È un casino, perché stanno lavorando e non vogliono che passi nessuno per evitare magari che si faccia male qualcuno. No, il problema è che sta sprofondando come una volta di Alessio, no? Quindi ancora stanno facendo delle prove tecniche per capire se il passaggio pedonale, almeno quello, riescono ad aprirlo. Quello con la macchina assolutamente no, attualmente. Stanno facendo delle prove per capire se a piedi si può andare. Gamba. Qua lì è sempre stato così, sprofonda il terreno sottostante, non li fanno bene. Ma speriamo con le piogge scoppiando una bugnatura che era sotto, quindi ammagato, diciamo, c'è acqua sotto il ponte, quindi sprofondato per questo, ma adesso speriamo che almeno il pedonale, quello a piedi, perché praticamente Viale Trento è un ponte che taglia in due quella zona, capito? E mi sa, no, anche mi pare che stavano più bene. L'hanno chiusa, l'hanno chiusa. No, l'hanno chiusa. Hanno rimesso, hanno messo dei lastroni in ferro, stanno passando sopra quei lastroni. Le macchine e poi i pedoni. Le macchine, ma non in Viale Trento, in Via Marra, se si dice. Lo so, no, è proprio in Viale Trento, è completamente chiuso, anche ai pedoni. Stanno effettuando delle prove tecniche con strumenti particolari per vedere se almeno i pedoni possono passare. Ti confermo, dove ti trovi, interrogativo? Benissimo, benissimo, forte e chiaro, cambio. Grazie alle due antenne che abbiamo, cambio. Ma io penso di sì con le antenne che abbiamo. Se monto l'antennino io, quello piccolo di gomma, non credo. ricevuto, io ti sento ancora bene, ti sento un po' con potenza minore, ma ti sento bene, capito? Io ti sento benissimo, capito? Vediamo un po' adesso come mi abbasso, come valle, se mi ascolti ancora, perché sto facendo il ponte. Ma io penso di sì, con l'antenna che hai, capito? Mi piace fare queste prove di collegamento tra vari punti della città. Qualche volta dobbiamo fare, io me ne vado a Platamona dalla 131 per vedere se ci sentiamo. Lo facciamo, non c'è problema. Quando vuoi, mo quando c'è tutto un po' il tempo, perché ho paura se piove, se si bagna l'antenna fuori. Non dovrebbe succedere nulla secondo me, ma è meglio non farla bagnare, che dici? Sono fatte apposta, sono schermate, dai. Va bene, no, in questi giorni una prova la faccio, vado con la 131 e rientro dalla Budibudi. KK. Uno dalla Budibudi e uno da Platamona e poi ci troviamo lì. È una buona idea anche questa. Tanto alla seconda rotonda il mare è sempre aperto, ma anche il barcicante dovrebbe essere aperto, dai. Vabbè, ma non è quello il problema, non vado per andare al bar, vado per provare, se poi un caffè ce lo vogliamo prendere, ce lo prendiamo, non c'è problema, dai. Io adesso sono quasi vicino a casa, come mi stai ascoltando? Benissimo, ti ascolto, dai. Tu mi ascolti, interrogativo? Bene, c'è il caffè. Perfetto, quindi abbiamo capito che da dove sono io, a dove abiti tu, riusciamo a sentirci, capito? Se mi fermo qua vicino a casa c'è un punto dove posso parlare tranquillamente. Vediamo, facciamo questa prova. Ho due bambini in bicicletta, cazzo, davanti, mamma mia, è un bel casino. Aspetta che mi fermo. Di qua posso praticamente parlare tranquillamente. Ma ti sei fermato, interrogativo? Mi ascolti sempre? Certo che ti ascolto bene, capito. E qua sono fermo proprio sotto casa, dai, vicino a casa. Perfetto, guarda, ti sento benissimo, capito. Prova a vedere come ti ricevo. Ah, ma tu come mi ricevi a me, interrogativo? Santiago 9 qua. Allora è perfetto. Grazie alle tue antenne, non c'è niente da fare, le antenne fanno tutto, le antenne, capito? Ma io l'ho sempre detto, la Turbo 2001 come antenna è un'antenna è molto, molto performante come antenna, dai. È alta però, quello che è in altezza dà. Bene, quello che mi dispiace, oggi sono venuto a cercare tempi, in frequenza non c'è nessuno, dai. No, sto cercando di entrare, Avanti, regarde! Mi dicevi, sono un po' grigio, capo. Buonasera a tutti, ben ascoltato anche un po' grigio dopo tanto. Sono a cercare tempi, grazie. Gianni, lo senti a Vicentino? Lo sento come? Forte e chiaro. Avanti, regarde. Buonasera anche a te, Giannangelo. Come mi ascolti dalla macchina? Forte e chiaro, Santiago 9, Radio 5, e anche Lupo Grigio, lo stesso segnale, la radio. Avanti. Ciao, quello che mi dico, mi trovo barra mobile con l'antenna esterna, piazzale Segni, ti sento forte e chiaro, tu come mi ricevi, capo? Gianni, attenzione, qualcuno copia Gianni? Già ci sono qua. La zona è quella sotto casa mia, dai, zona via Baldetta, invece il Lupo Grigio si trova al quadrato, per quello che lo senti forte. Scusate. No, è perché non si sente niente qua, perché ho la porta aperta e c'è un vento che non capisce nulla, non stavo urlando contro di voi. Ricevuto, ricevuto. Giambi, sei ancora maschicchiato, interrogativo. Sì, anch'io ti ascolto proprio a livello QRM, va bene, Gianni, va bene, a dopo allora. Attenzione per qualche altro sul canale 10, attenzione canale 10, attenzione sul canale 10, 10, c'è qualche altro interrogativo. Attenzione. Eccomi. Ok, ci è rimasto qualcuno, ma credo sono andati tutti via. Io chiedo a piazzare tempo con la mini lembo, la turbo mini lembo in macchina sono da fermo, riesco a farmi sentire da tutti a casa. Allora guarda, io sto modulando con un portatilino della mini lembo collegata all'antenna esterna, quindi è la loro strumentino. Però a orecchio ti ascolto bene, capo. No, attenzione, entrato nel garage di casa, quindi al limite diamo il tempo che sale sopra, capo. Comunque, lupo grigio, da un po' che non ti sentivo, ieri invece stavi parlando da casa, infatti non ti sentivo mai, se ti sento manuale forte e chiaro, e da un po' che non ti sentivo così. Ebbene, perché sono, ripeto, l'unico che mi ascoltano tutti è piazza alle 6, infatti sono in macchina, sono qui dalle 17, ho provato a chiamare, ma avete risposto solo adesso, capo. Ho capito, capo, vai avanti di nuovo per te, Claudio. Appositamente a Piazza dei Segni per poter parlare ed ero un po' demoralizzato perché, ripeto, chiamava e non rispondeva nessuno. Meno male che adesso siete entrati voi, almeno non dico tanto, una mezz'oretta di parlare posso farlo. Anch'io ho acceso prima, stavo facendo altro, stavo guardando il telefono e stavo anche ascoltando, ma non c'era nessuno, ho fatto un giro sul 10, sul 23, ma oggi non è entrato nessuno, tranne penso noi sul 10. Scusate se mi avete chiamato, ero un attimo fuori a controllare una cosa. Comunque stamattina c'era un nuvolone che stava coprendo tutta Sassari, poi è iniziato un po' a scaricare, poi ha fatto un po' bello, poi è di nuovo mezzo annuvolato. e non si fa neanche una comunicazione a Cagliari. Mi sembra troppo bello per essere vero, dai. Sì, vabbè, che 12 euro non era tanto, però era un po' la scusatura, vabbè, andare a pagare e poi, come hai detto tu, non c'è più nessuno. Qualche volta sul 10, sul 23, ma altri canali non ce ne sono in cui farlo, semmai se non è in propagazione. Ma scusami, anche, non si fa neanche la comunicazione a Cagliari, interrogativo. Perché credo che gli OM, i radiomatori, è rimasto tutto com'era, giusto? Anche tu arrivi molto bene. Dai, vi lascio un attimino che mi seguo questa cosetta che c'ho roba al forno, quindi non posso seguire a voi perché mia moglie sta facendo altro. Riprende qua, già rientro dopo. Un abbraccio a Monserrat, ci sentiamo dopo, vai qua. Ciao Claudio, vuoi sentarmi a te? Lo sento, ho mostrato passo passo il filiale, ma non capisco cosa dici oggi. L'altro giorno lo capivo, ma oggi non capisco cosa dici. Sento che sta parlando, ma non capisco cosa dici. Avanti, ragazzi. E un saluto a Monserrato che mi ascolta e anche a Claudio, buonasera. Claudio, buonasera, credo che finalmente ci sentiamo. No, a Monserrato proprio non lo senti, adesso Claudio sono a Piazza dei Templi con il Barramobile, la mini turbo della Lemca. Gruppo Vigio, sì sì. Grande, ci sono, io adesso piano piano mi cammino con la macchina verso casa. Io comunque a Monserrato non lo sento proprio, capito? Ti stavo dicendo, sono entrato sul sito della Midland, ma non riesco a trovare i microfoni, ci sono apparati e basta, il microfono non è troppo. Guarda, se ci riesci tu mi dai il numero di telefono e ti chiamo. Allora, guarda, per voi svegliati e fai Google, e ti dice Midland e il codice del microfono, magari lo trovi, altrimenti ci provo io poi. Te l'ho detto? No, ce l'ho, ce l'ho. Allora, vai su Google, perché dico io così ho fatto, Guarda, mi senti? Eia, l'ho trovato, aspetta. Aspetta, ho acceso la macchina, sto parlando con il mio figlio, ora piano piano vado verso casa a cercare le cose. Ma non c'è nessuno in frequenza, in terra? Ci sono io. Come che mi scorro sempre il nome, Lupo Grigio. Non volevo sovramodulare perché non sapevo se stava parlando Google Monserrato, perché come sai, penso anche tu non lo senti che io sono di zona negativa per parte da capito, quindi pensavo che stava parlando lui e stavo aspettando che qualcuno andasse avanti. Comunque io sono qui. Sentire Monserrato, quando passo da quelle parti già mi porto il portatile e se è in frequenza già farlo con il portatile. Signore, per chi mi sente, io sto andando a casa in macchina. Per un pomeriggio io quando ha chiamato che tu l'hai sentito Santiago 1, io sono riuscito ancora a sentirlo con una radio di 5, ancora riesco a sentirti un pomeriggio, se mi stai ascoltando. Io ti ascolto chiaro, stavo dicendo che devo andare a casa, devo rientrare a casa, sono... È sempre forte chiaro, ma il segnale non è forte come prima, certo, però la radio è sempre 5. Positivo, un saluto a tutti da Lupo Grigio che adesso si sta spostando e si sta abbassando come segnale che sta tornando a casa. Avevo avuto le orecchie stente ma non ho sentito nessuno che stava parlando. Sì, io già ci sono, dai, avevo acceso altri apparecchi perché stavo guardando una cosa e se no mi su e spero di risentirlo più avanti, però mi aveva cos'era, già mi l'ha detto che l'altro giorno stava un po' e riusciva a sentirlo, forse se attacca riuscirei a sentirlo, ma in queste condizioni non ci riesco. Attenzione Monserrato, ascolti doppio numero. Chiediti di aumentare, vediamo un po' se mi senti adesso, dai. Ehi, io l'ho sentito, ha detto eia, eccetera, eccetera, l'ho sentito, dai. L'ho sentito bisbigliare, però l'ho sentito poco, non ho capito la maggior parte del discorso, però almeno sono riuscita a sentire una voce in lontananza. Come osservo adesso attacco un coso, un trasponder per battare, così li senti tutti bene. 400. Allora li arrivi basso basso, non può arrivare qualche sassari qua, e cosa vuoi ti dica? È una zona molto bassa, molto centrale dentro sassari, e vedi muro se lo senti perché ce l'hai un po' più aperto, io sono sopra la montagna qui. Allora così con questa potenza sei 9 più 10, quindi datti una regolata, vedi tu cosa vuoi fare. Poco fa di Santiago 8 e sei passato da 8 a 9 più 10. A me non mi interessa. Sicuramente ancora aumenta per farti sentire da loro, ma se loro poi non arrivano da te, arrivano bassi bassi. È inutile che spieghi corrente, così è qua. Io non ho bisogno di potenza per parlare così, io sono, guarda, 20 watt di portante, 40 modulati, ma io ci parlo anche con Baracchino, ci covatti con Monserrato, non c'è neanche lui, lo sentivo poc'anzi che era attaccato, Santiago 8, adesso è 9 più 10, fatti conto, non c'è problema per mettere le zone, non ho nessuna difficoltà. Ho sentito a Gianni che ha attaccato, però chiaramente rifare a portare è molto molto difficile a Sassari se non è una zona molto Gianni, anche se attacchi. Ti può sentire proprio basso, basso, basso, è come Pioncetto, Pioncetto c'è una zona micidiale, quando arriva un uomo liscio e quando aumenta arriva come a portare, però Sassari non sente nessuno, è una zona. Buongiorno del Kaiser, e quindi Gianni, passa il caragai, mi mosserà, non aumenta se no. Ehi, dai, no, cosa non aumenta? Io lo sto ascoltando, Monserrato, e anche lui mi ascolta, quindi anche se mi ascolta un passo, mi ascolta sempre, così è Monserrato. Hai sentito Monserrato, più lungo? Bianco per me. Lui già, passa adesso, se a livello di corrente ha detto che ti ascolta. Se non vuole ricorrere, non riesce a percepire manco quello che dici. Vai Claudio, vai. Già sono qua, io che sto finendo questa cosetta. Sì, perfetto, lascialo così e non tocca più nulla, perché ti ha ascoltato anche da dentro Sassari. Arrivavi bene. Benissimo, arrivi qua. Partiavi tutto. Lascialo così e non mettere più altro, lascia tutto così. Arriva più forte a me di te. Che cazzo, sei un grattacielo, io ero qui. Sono un muro, sto dicendo. Non sto facendo a Gianni, ho detto muro, sto dicendo a te, a Claudio. No, no, a te già, ovvio. Voi del processo avete grandi difficoltà, perché purtroppo c'era con le tasche di ciocca che molto volta. No, ho detto Claudio, a te ti arriva Santiago 4, Monserrato, nonostante sei più vicino a lui, perché Muro sei più vicino, a me mi arriva 7, così. Boh, strano, mancare tutte le zone le facciamo. Adesso devo fare un lavoro all'antenna che la verità mondo ci prepara, io perché ho abbassato tutto le antenne dal traliccio e quindi sopra il traliccio adesso ci farò un altro, quindi sono 8 metri, 8, 9 metri di quasi 10 metri di tubo, lo tiro tutti su, sto preparando gli anelli per attaccare i ganci dei tornichetti per pesare, perché non ci fa nylon lì, lì ci fa il bico, capite? Ci fa il bico, quello che c'era prima nel traliccio, e quindi sto preparando, mi sta facendo un amico l'officina, mi sta preparando i ganci per agganciare i tornichetti con i moschettoni, capito? Per poi pesare il bico, ce ne vanno 4 sopra e 4 sotto. Faccio un lavoro micidiale, non ho problemi di tubo perché ho spezzato l'antenna in due, ma il tubo sta tranquillo, non lo porta via, il traliccio non lo porta via perché ci sono le direttive attaccate qui. C'è tira fondi da 22 con piastra staffata dentro il muro, quindi è il tubo da 2 pollici e mezzo, fatti il conto. Voglio provare, vedere se va meglio o peggio. Sì, Giovanni, ci conosciamo anche di persona, beh, dopo tanti anni, fino a fine, facevo battaglie negli anni che furono, perché io stavo in un canale, loro stavano nell'altro, e ci scattavamo a vicenda, capito? E purtroppo sono venuto a mancare Nino lì, a Ozieri, di nuovo, e non c'è più nessuno, non parla più nessuno, quindi un po' di cose. Appena sarà che faccio girare qua per Sassari, vai, dottor. E tanto l'acqua è buona per tutti, perché dall'alto verso il basso è normale che arrivi fuori, perché c'è l'altezza naturale, diciamo così, anche se lo pone in un tubo, c'è l'altezza del palazzo. No, ma già un esperimento lo sto facendo, capito? Sto facendo un esperimento perché questi tipi di antenne così a radiali lunghi, così più alto il piano di radiazione da cui io, sai qual è il mio problema, che voi forse non sapete, Giulio lo sa, il mio tetto c'è il cartone che ha tramato, ma sul cartone che ha tramato c'è tutto il rivestimento in alluminio, un piano di massa allucinante che nessuno potrebbe mai avere, capito? E anche per quello che lavorano bene le antenne, non fatto mai, non ho mai avuto, non ho rientro di RF, non ho niente, tutto lì. E quindi sfruttando questo piano di massa, voglio tirare sull'antenna, voglio tirare un po' più sull'antenna, almeno di due elementi, perché gli elementi ci sono, ma sono tutti bassi adesso, almeno di due elementi, e vedere cosa succede, capito? Giusto così, tanto ci sono i ganci con le cravatte già pronte, agganciate per tirare su, quindi viene un bel lavoro, tubo già, lo sai che il mio lavoro chi l'ha fatto, quindi non ho problemi, sono quattro tirafondi, l'ha visto Luca Fricco, si è spaventato, quattro tirafondi che entrano dentro il muro da 22, anzi da 20 solo, quindi c'era 19, fatti conto. Ho tratto a muro il calcestruzzo, un lavoro eterno mio, ha fatto bene, ha fatto Fabrizio, è veramente fatto a bocca, e i tubi sono quelli che aveva lui, quindi sono un bel gusci. Ok, non c'è rimasto altro nessuno, quindi vediamo un po', Monserrato, riprendi. C'era anche subito. Siete prendendo il telefono tutti e due o siete attenti alla radio? Ma riprendere a Monserrat. Monserrat, riprendi che metto il baracchino, così mi senti. Sì. No, ragazzi. No, no, no. Ammazza, te ne vai. Attrice il microfono, ragazzi. Ora, ora, ora. Problema già, ma io ando per curare qua questo microfono, c'è un problema sul PTT, lo sai che avevi ragione, ora, ora, ora. Mettici un po' di spruzzi, un po' di aria e poi li metti un po' di spray per contatti oppure anche CRC, va bene, che va molto meglio il CRC dello spray in contatto, perché il CRC rimane oleoso e lo lascia inumidito, capito? Invece l'altro si secca e dopo ricomincia da capo. Invece con CRC io ho provato uno e l'altro e con CRC andava via. Ah, non ho capito il microfono perché deve fare così. Io ando per qua a capo, Monserrat, mi ascolti col baracchino? Ecco, 9-5. Ah, ci picchiamo. Va bene, va bene. Questo è l'Inuit, no, Gorie. Inuit è quello che mi ha dato babbo. Abbonato che questo è l'Inuit che mi ha dato babbo. A 10 watt, 10 watt arrivo anche a Battala, 9.5, ora, ora, però c'ho questo cazzo di microfono che sta rompendo le scatole, veramente, altrimenti compro una cosa nuova e deve spruzzare lo spray, cioè allucinante, veramente, ando per culo a capo a Antonello, riprendi Gianni. Ma cos'è l'MV più 5? Ehi, l'MV più 5. Ma tutti i difettosi sono i singoli, l'antenna che non andava bene, l'MV più 5 che non andava bene. Veramente mi sono rotto le balle, adesso non compro più niente. Ma oramai io compro una roba nuova, cazzo, mi ha messo il micro, il coso, il connettore Luca, un nuovo. È difetta di PTT. Ora, qua. Ah, adesso me ne sto accorgendo perché ho inserito il modulometro nella radio e me ne accorgo, capito? Ma dimmi tu. Quindi cosa dici di fare già? Aprirlo? Ah, c'è quella mollettina, non c'è altro. Ehi, a quella lì, allora praticamente distruggi un po' di aria, cioè se c'è quelle bombolette d'aria, distruggi prima l'aria e poi li metti i nostri cose. Ma che CDC va bene? Ho spreco per contatti, come vuoi, però il CDC non tiene oleoso, capito? Quindi rimane lubrificato. E niente, l'ho fatto anche a me. Risolto solo con CDC, con lo spray per contatti lo facevo ancora, ho messo il CDC e non me l'hanno fatto, però prima butta di l'aria perché sennò si impasta tutto. Adesso faccio così allora, vabbè, faccio così dai, va bene, riprendi, vediamo un po' se è rientrato Riccardo, se no riprendi tu qua. Sicuramente, non lo so, comunque quell'antenna è buona, non ci sono dubbi, il problema è che è troppo bassa, bisognerebbe sollevarla, capito? Sì, ma va bene Gianni, questo MB più 5 con questa radio, ottimo, come vedi, ho i toni a 2 e il microfono è a 4, e i watt sono 10, riprendi. Va bene, va bene, sì, va benissimo. Il problema è quello lì, però adesso lo faccio. l'ho aperto, già le metto, e di punto con la vite già rimangono fermi. Buffalo a bocca se non c'hai spray, ho la bocca su. Lo controllo, mi ha rotto le balle, riprendi qua. Lo so, fa così, prendi il cucci per pallolino. Io anche il mio l'ho aperto, gli ho messo lo spray. Comunque Claudio, io da Ruginito. Lo sbaglio che ho fatto ieri non lo fare più quello di parlare in AM e mettere lineare in USB, sino che passi tutto. Thank you. Vincenzo, la M è 1002 in quanto laterale. Aspetta, Jack, che le sfruttano il CRC, adesso ho allungato la molla, se non quella palla gliela cambio, gliela metto più, praticamente più dura, mi è troppo morbida quella e quindi non fa bene il ritorno per quello che non esce, già torno subito. Siamo qua. Com'è che si chiama che vado a cercarlo?